E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. ...2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 29 maggio 2010. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale 2024 è radio24.it. In questa puntata parleremo ampiamente dell'iPad, arrivato anche in Italia. Come avete sentito dai nostri giornali radio, c'è stata molta attesa, soprattutto file quasi impreviste, devo dire, ai negozi della Apple, ma di questo parleremo più tardi. C'è naturalmente chi si domanda se è il caso di fare una fila per comprare un prodotto che non è necessario, non è certo un bene di prima necessità, ma queste sono le stranezze della nostra società. Prima di iniziare con le notizie, due che riguardano Radio 24 e il Sole 24 Ore. Secondo l'ultima rilevazione di Audiradio, l'indagine nazionale sull'ascolto della radio in Italia, Radio 24 ha aumentato gli ascoltatori di oltre il 25%, raggiungendo nell'ultimo trimestre, cioè nel primo trimestre dell'anno, 2.371.000 ascoltatori nel giorno medio. Quindi grazie a tutti voi per la vostra attenzione, naturalmente un ringraziamento dalla redazione, dai nostri tecnici, da tutto il personale di Radio 24. Ricordo che a proposito di ascoltatori, c'è un buon numero di ascoltatori che ci riascolta via podcast. Anche questa puntata sarà disponibile attraverso il servizio podcast di Radio 24. Tutte le informazioni sono online. Vi ricordo che il file MP3 di questa trasmissione sarà disponibile al massimo entro le 18.30 del sabato pomeriggio, quindi entro le 18, un'ora e mezza al massimo dalla fine della nostra trasmissione. La seconda notizia riguarda il nuovo sito internet del Sole 24 Ore, online da lunedì, completamente rinnovato, ridisegnato e anche con una nuova organizzazione delle notizie. Sicuramente ci sono molte cose interessanti, ma che cosa c'è di meglio che andarlo a vedere e a navigare? Naturalmente leggendo le molte notizie che trovate su www.ilsole24ore.com. A proposito di giornali online, c'è una notizia importante che arriva da Londra. Ne abbiamo parlato mesi fa quando è stato fatto l'annuncio, a Londra, dove la News Corporation di Rupert Murdoch ha lanciato la versione a pagamento del Times. Il sito sarà gratis per le prime 8 settimane per gli utenti che si registrano, solo per quegli utenti, dopodiché i lettori dovranno pagare una sterlina al giorno o 2 alla settimana per leggere le notizie. Beh, sicuramente una sterlina al giorno è un prezzo piuttosto elevato per l'online, ma 2 sterline alla settimana è sicuramente un ottimo prezzo. Oggi parleremo anche di telefonia mobile e di come sta andando il mercato mondiale. Per quello italiano la notizia più importante è che da ieri è in vendita tramite Vodafone il Nexus One, lo smartphone di Google con sistema operativo Android. Per ora si può acquistare solo online sul sito internet di Vodafone, quindi vodafone.it, a 499 euro per la versione ricaricabile. Le offerte con abbonamento saranno in vendita dal 1 giugno e la versione più economica, in questo caso con l'abbonamento, prevede un canone mensile di 29 euro e il telefono incomodato, quindi non si paga nulla subito, 29 euro al mese e il telefono è vostro. Nexus One, lo ricordiamo, è attualmente uno dei telefoni più potenti ed evoluti sul mercato. Altra notizia che riguarda il mercato dei servizi, parliamo sempre di telefonia mobile. Nokia e Yahoo hanno annunciato una collaborazione. Nokia si concentrerà sull'offerta delle mappe anche per Yahoo. Sapete che Nokia possiede Naft, che sta spingendo molto su questo settore, offrendo anche la navigazione gratuita. Il motore di ricerca americano si occuperà invece della messaggistica. Yahoo è molto forte, come sapete, nella email, e allora Ovimail sarà powered by Yahoo, il che vuol dire che sarà gestita dall'azienda americana. Le due società prevedono poi di unire gli utenti dei rispettivi servizi, evitando così che un utente dell'uno debba registrarsi una seconda volta per utilizzare l'altro. Il tutto andrà, è interessante la notizia, ma il tutto andrà a regime il prossimo anno. Una notizia che riguarda la TV, di cui parleremo presto, riparleremo presto in occasione dei mondiali. Questa settimana Europaset ha presentato la propria offerta in alta definizione a pagamento per il digitale terrestre. Quindi nasce una nuova piattaforma Pay TV. Le trasmissioni dovrebbero iniziare in luglio e per la prima volta verrà utilizzata una nuova tecnologia di codifica chiamata DVB-T, dove DVB-T sta per digitale terrestre 2, e quindi è una evoluzione che consente di trasmettere o un numero di canali maggiore sulle stesse frequenze o canali con migliore qualità, cioè è un'evoluzione dello standard di trasmissione del digitale terrestre che, oltre ad altri miglioramenti, è in grado di comprimere maggiormente i dati. Questi sono aspetti positivi. L'aspetto negativo di tutto ciò è che servono nuovi decoder capaci di interpretare il segnale del DVB-T2. Infatti l'offerta Europa 7 HD sarà accompagnata dall'arrivo tra un paio di settimane di un decoder dal modico costo di 179 euro. E adesso parliamo dell'iPad, partendo però da una considerazione di carattere finanziario, borsistico. Mercoledì, tra gli alti e i bassi della borsa di questi giorni ai quali siamo abituati, l'Apple ha superato in termini di capitalizzazione la Microsoft, che pure rimane numero uno tra le aziende tecnologiche per fatturato e utili, ma per capitalizzazione non lo è più. Negli Stati Uniti la numero uno è la ExxonMobil, ovvero l'azienda petrolifera, il più grande colosso petrolifero americano, ma al numero due fino a qualche giorno fa c'era Microsoft. Oggi c'è Apple, che è così l'azienda di tecnologia con la più grande capitalizzazione. Per alcuni osservatori del mercato questo freddo giudizio dei numeri della borsa americana potrebbe segnalare addirittura il declino dell'era dei PC a favore di tutto ciò che commentiamo spesso, cioè gli smartphone e anche altri strumenti per la mobilità, dove Apple sta andando molto forte, che Apple potremmo dire sta interpretando meglio di Microsoft. Prendete ad esempio i tablet, i computer a tavoletta con schermo a tocco senza tastiera. Vennero inventati e presentati al mercato nel 2002 dalla Microsoft, ma finora non sono mai stati un successo. 8 anni più tardi, la rinascita di questa nuova categoria, perché stiamo parlando di una nuova categoria di computer, è affidata alla Apple e al suo iPad. Il successo in questi primi mesi è concreto, vedremo poi se questo successo farà nascere una nuova categoria di computer. Ne vogliamo parlare oggi con Luca Figini, che è responsabile di una rivista che si chiama Netbook, che si occupa di computer e di mobilità. Bentornato a 2024. Grazie a voi. Per chi si è perso qualche capitolo, qualche puntata, diciamo che questo è un prodotto lanciato all'inizio dell'anno dalla Apple, messo in commercio da qualche mese negli Stati Uniti e da poche ore, potremmo dire, è arrivato in altri paesi, in particolare in Europa, tra i quali l'Italia. Che cos'è? Se qualcuno si è perso, insomma, qualche capitolo e non ha visto magari una fotografia. L'iPad è una tavoletta interattiva, ha un display da 9,7 pollici, grande più o meno come un magazine, come dimensioni. Cioè, quindi come una rivista. Come un blocco note, sì, esatto, esattamente. Ha un display interattivo al tocco da 9,7 pollici, quindi più o meno grande quello di un netbook, grosso modo come formato, ed è bellissimo da vedere perché è tutto realizzato in alluminio con questo display ampio ricoperto da una superficie di cristallo, in modo tale che qualunque tipo di operazione venga svolta con il dito scorra sotto fluidamente. Quindi riproduce, diciamo, l'interfaccia a tocco, quindi touchscreen dell'iPhone, dell'iPad e di tutti poi gli altri smartphone che sono seguiti negli ultimi mesi. Assolutamente. L'iPad potremmo definirlo un iPod ingigantito o un iPhone ingigantito. Il sistema operativo è lo stesso, chiaramente ottimizzato per un display molto più ampio e quindi anche le immagini si vedono un po' meglio, eccetera. Bene, continueremo tra poco. Anche io mi sono confuso, ho detto iPad al posto dell'iPod. Faremo sicuramente confusione con tutti questi i, eccetera, eccetera. Come mai già da stamattina in fila non potevate aspettare? L'attesa era tanta. No, perché volevo comprarlo subito. Ma l'ha già provato? No. quindi va un po' alla cieca. Assolutamente. Io in realtà l'iPad l'ho ricevuto già ieri perché l'ho preordinato, quindi sono qua solo per prendere un altro e per partecipare all'evento, diciamo, in diretta. Siamo dei fedelissimi. Ho avuto poco tempo per provarlo, però devo dire che effettivamente ciò che è stato promesso è di fatto c'è, e quindi funziona molto bene e meglio addirittura del computer per alcuni tipi di cose, quindi per esempio per leggere le email, navigare su internet, guardare video, foto. Io già sono stato il 3 aprile a New York alla presentazione del 3 aprile americano. Io accompagno lui. Fatto questo sacrificio sì, da ieri insomma. Da che ora? Dalle 5 siamo stati in macchina, abbiamo mangiato qua e poi abbiamo fatto la notte in macchina appostate lì fuori. Appena fatto un pochino chiaro, poi dalle 5 e mezza ci siamo messi qua fuori che iniziava ad arrivare gente. Portatile con un laptop, con meno ingombro, più leggero, più comodo. Perché ero curioso di... avevo paura che finisse. Ma lei l'ha già tenuto in mano, l'ha già provato? No, ma ho letto tutto quello che si poteva leggere. Speriamo che gli editori si sveglino e facciano l'edizione iPad, l'edizione elettronica di tutto quanto. Eviteremo di accendere il portatile la sera a casa al ritorno dall'ufficio. Per un regalo, io non saprei veramente cosa farne. E queste erano alcune voci di alcuni acquirenti raccolte ieri mattina, quindi alle 8, poco prima e poco dopo le 8, al momento del lancio ufficiale in Italia dell'iPad, raccolte da Matteo Finco. Naturalmente ognuno faccia i propri commenti, io come dicevo già prima, insomma, non capisco come uno possa fare la fila addirittura per acquistare un prodotto che non è di prima necessità, ma così vanno le cose. E anzi, fortuna che ci sono questi super appassionati che non possono aspettare nemmeno qualche ora per avere in mano un nuovo prodotto. Questo è 2024, siete su Radio 24, stiamo parlando dell'arrivo dell'iPad, che sicuramente è una novità interessante per l'ecosistema che vive su internet, e dalla reazione di tutto questo ecosistema si potrà capire che cosa succederà nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Ma una delle domande che più spesso ci avete anche fatto via email è a che cosa serve un prodotto di questo genere? Luca Figini. Questo prodotto nasce per essere online, quindi un prodotto social in senso estremo del termine. Quindi per essere connesso alla rete internet. Per essere connesso a internet. Lo fa in due modi, via Wi-Fi, quindi con le reti wireless, oppure c'è anche una versione un po' più costosa, 3G, con il reparto del cellulare, che serve esclusivamente per navigare, quindi non può telefonare come fa l'iPhone, ma in realtà serve per connettersi alle reti cellulari ovunque ci si trovi e ovunque è disponibile una connessione a banda larga. Perché un iPad senza una connessione un po' veloce, tipo una DSL o una Wi-Fi un po' veloce, insomma, si presta poco alla navigazione internet, perché richiede velocità per scaricare applicazioni, per accedere con Safari al web o per essere su social network, per chattare, quindi, per l'email. Per essere, diciamo, l'utilizzo che se ne fa è la navigazione in internet? Un internet da divano appoggiati comodamente sulla chaise longue navigando in internet, oppure un internet da viaggio, perché la compattezza di questo prodotto lo rende perfetto da trasportare in borsa. E quindi sul treno, sull'aereo è perfetto da estrarre per guardarsi i siti o per leggersi un ebook anche eventualmente. Poi magari parliamo anche di alcune caratteristiche, di alcuni aspetti positivi, di alcuni negativi. Può sostituire il computer? Perché questa è un'altra delle domande che ci si fanno, anche perché il costo di questo prodotto non è basso, partiamo da 500 euro fino a 800 euro, anche se il marketing preferisce dire 499, però insomma sono 500 euro. Sostituisce un computer? L'iPad è un dispositivo nato per la fruizione dei contenuti internet, quindi va benissimo per navigare, per leggere i siti. Non è un prodotto nato per produrre contenuti internet. La produzione di contenuti internet, quindi video, foto, qualunque cosa sia pubblicabile sul web, è predominio del computer, assolutamente. Quindi è un progetto e comunque un prodotto che va ad affiancarsi al computer. Recentemente una statistica di Morgan Stanley sostiene che, secondo un campione intervistato da loro, il 40% degli utenti non acquisterà un computer per acquistare un iPad. Questo non significa che l'iPad verrà acquistato al posto del computer, Da questo portatile. 40%, sì. Esatto, di questo 40%. Ma significa che questo 40% probabilmente ha già un computer e vuole uno strumento in qualche modo passivo per la navigazione su internet, quindi per la fruizione di contenuti già disponibili su internet. Certo, diciamo che esiste anche in questo caso una tastiera virtuale che si apre sullo schermo, però certo non è come la tastiera di un computer, non è come avere il mouse davanti, insomma, un bello schermo magari da 20 o più pollici. No, assolutamente, la tastiera virtuale serve per scrivere gli indirizzi, per scrivere e rispondere alle mail, non c'è il mouse, c'è il dito, quindi con l'interfaccia touchscreen si usa il mouse, il dito come se fosse un mouse fondamentalmente. Se uno deve scrivere tanto è meglio se si compra la tastiera Bluetooth fornita come accessorio. Perché... Ecco, perché questa è un'altra delle caratteristiche che può essere vista positivamente ma anche negativamente, perché poi bisogna insomma, mettere mano al portafogli. Ci sono tante cose che mancano, ad esempio la porta USB, e uno potrebbe dire ma come, compro una cosa che costa fino a 800 euro, non ha la porta USB, se qualcuno mi passa un contenuto su una chiavetta USB non lo posso inserire sull'iPad, è vero, ma come la Apple ci ha insegnato negli anni passati, esistono molti accessori che possono, diciamo, sopperire tutte le mancanze. L'iPad è la sintesi della filosofia Apple. Io ti do il prodotto base, quindi quelle funzioni base che secondo me potrebbero esserti sufficienti. Se tu vuoi qualcos'altro, chiaramente lo acquisisci come accessorio, che sia esso hardware o software. Quindi in questo caso manca la porta USB, ma c'è il camera kit o il memory card kit. Sono due piccoli dispositivi che si collegano all'interfaccia proprietaria dell'iPad e forniscono il lettore per le memory card delle fotocamere per collegare direttamente una fotocamera via USB. Oppure la tastiera, oppure la custodia rinforzata in pelle che si ripiega in modo tale che sembri un libro, un portatile a seconda della posizione in cui si mette. Insomma, l'indotto di accessori Apple è quello che poi fa la forza di questi prodotti, perché ti do il ticket d'ingresso sull'utilizzo di un dispositivo e poi in qualche modo ti invito ad espanderlo con una serie di altri accessori a pagamento. Cioè, come quando io dico sull'iPhone non c'è la radio, è una cosa che giustamente facendo la radio insomma mi preme molto, ma poi molti dicono beh poi c'è l'accessorio, però uno potrebbe anche dire perché devo comprare un accessorio quando molti smartphone hanno già la radio a bordo e la radio a bordo costa forse mezzo dollaro, una cosa del genere. Tornando all'iPod, quali sono le novità più interessanti, quindi anche gli aspetti più positivi di questo nuovo prodotto? Parlando in generale, gli aspetti positivi, oltre alla questione che rende democratico l'uso del tablet, nel senso che lo rende di massa, l'altro aspetto positivo è che facilita la navigazione a cui noi siamo abituati sul computer in modo veramente banale, nel senso che rende la navigazione a fruizione di contenuti web a portata di dito, in senso letterale del termine. Quindi questa interazione touch è molto facile, quindi rende la cosa alla portata anche dei non esperti di computer, tu dici? Assolutamente sì, proprio l'internet portato sulla massa, quindi senza accendere un computer, con un tempo di attesa pari a zero nell'accensione e con programmi che si avviano velocemente. Ed è questo poi anche il segreto dell'iPad, cioè quello di utilizzare una piattaforma consolidata derivata dall'iPhone, quindi con tutto il successo che ha avuto l'iPhone, e di renderlo più grande, più fruibile, più visibile e anche molto trendy, diciamo, perché questo è un altro segreto dell'iPad, un'altra innovazione dell'iPad, quello di rendere un prodotto che sembrava destinato ormai a un mercato verticale, renderlo veramente un prodotto per apparire, per navigare in internet facendosi vedere sul tram, sull'autobus, sì, o sul treno. Sì, questo è sicuramente una delle caratteristiche e uno dei meriti anche della Apple, cioè quello di aver reso questi prodotti affascinanti. Effettivamente i computer sono ancora oggi visti come macchine di lavoro, pochi sono i computer belli da vedere. E poi certo sono in effetti macchine per la produzione, anche se in alcuni casi vengono usati per divertimento. Senti, abbiamo detto dei prezzi, abbiamo detto insomma che partiamo da 500 euro fino agli 800 euro per il prodotto più completo, che è una memoria di 64 giga che può connettersi alla rete di telefonia mobile, perché nell'altro caso insomma dobbiamo essere in presenza di una connessione wifi. A proposito del prodotto per la connettività alla rete 3G, possiamo scegliere tra quali gestori? Perché poi appunto dobbiamo appoggiarci su una rete di telefonia mobile e non possiamo inserire la SIM del nostro telefonino, oppure la SIM che abbiamo dentro alla chiavetta USB, se abbiamo un piano tariffario per navigare in internet. Spieghiamo un po' di cose. Allora, in questo momento sono due gestori che hanno programmato un piano dati apposta per le pad, sono Vodafone e Tre. Tre prevede, con a fronte di 5 euro mensili, un monte dati di 3 GB al mese. Quello di Vodafone sono due tipi di offerte: con 30 euro al mese si hanno 500 MB al giorno, oppure su base giornaliera 2 euro per 500 MB, quindi ogni giorno va rinnovata. Dopodiché si può usare qualsiasi operatore, chiaramente con la logica del fai da te, nel senso che l'iPad usa una SIM che è più piccola di quella tradizionale. La micro SIM, famosa micro SIM. La cosiddetta micro SIM. La micro SIM non è nient'altro che la SIM normale, solo con la parte in rame, quella che fa contatto, metallica. Quindi una persona un po' smaliziata potrebbe, con un taglierino, eventualmente ritagliare. Ah sì? Ah, questa non la sapevo. Potrebbe eventualmente ritagliare la parte metallica della SIM e utilizzare una SIM che ha già di Tre, di Vodafone, di TIM o di Wind, a cui è associato un piano dati, e quindi inserirla nell'iPad. È fondamentale il piano dati, nel senso che l'iPad è un prodotto nato per internet, genera del traffico internet, e se non è previsto un piano dati a forfè, quindi mensile o a ore, ci spendono un sacco di soldi. Sì, ci si trovano veramente molto sorpresi in bolletta. Senti, queste due proposte, poi mi sembra che arriverà anche qualche cosa da TIM, giusto? Sì, assolutamente sì, ma in questo momento non c'è ancora. Queste due proposte sono paragonabili agli altri piani dati che i gestori italiani offrono per, ad esempio, una chiavetta USB che io attacco al mio computer portatile? No, non sono paragonabili, sono piani dati fatti apposta per fornire un paracadute a chi utilizza l'iPad, non sono dei veri e propri piani dati. Una chiavetta di solito accompagnata da 100 ore o da 10 GB, 5 GB mensili. Sono più generose le chiavette USB, diciamo, i piani associati a queste chiavette. Sono molto più generose per i dati, per le chiavette e per i cellulari. Questi sono piani dati per navigare, per non trovarsi veramente delle bollette esagerate. Ti faccio notare anche che, per esempio, proprio per il fatto che sono veramente dei regalini che gli operatori fanno, che per esempio Vodafone, quando vai oltre soglia, cioè superi la quota di 500 MB al giorno, non ti fattura i dati aggiuntivi che tu trasferisci, ma ti abbassa velocità a 64 kbps, che è paragonabile a una velocità di una linea analogica di vecchia fattura. Diciamo, se superi questa soglia ti faccio navigare ancora, ma molto piano, che praticamente non riesci a fare quasi nulla. Magari riesci a scaricare qualche email. Sì. Magari, senza legati, però. Poco di più. Seguiteci il sabato nel pomeriggio di Radio 24 tra le 16 e le 17, oppure online sul nostro sito internet entro al massimo le 18.30, quindi entro al massimo un'ora e mezza dalla fine della nostra trasmissione, troverete il file MP3 di 2024. Il consiglio è sempre quello di abbonarvi gratuitamente al nostro servizio podcast. Trovate tutte le informazioni online oppure inviateci una email. Io sono Enrico Pagliarini, ringraziamo come sempre anche i nostri tecnici, oggi Pietro Lacorte. Stiamo parlando dell'iPad, dell'arrivo dell'iPad in Italia. Il prodotto era già disponibile da un paio di mesi negli Stati Uniti. Tra poco parleremo anche del mercato della telefonia mobile, un mercato dove ci sono sempre molte novità interessanti. Stiamo parlando dell'iPad con Luca Figini, che è responsabile di una rivista che si chiama Netbook. Adesso forse dovrete cambiare nome o comunque occuparvi anche di altre cose, perché assieme ai Netbook, tra le ultime categorie, ci saranno sempre più anche i tablet. E tra poco parliamo anche dei concorrenti. Volevo però, Luca, parlare della offerta che c'è su iTunes, perché ricordiamo che naturalmente le cose che si possono installare sull'iPad sono quelle che si scaricano dal negozio virtuale di Apple, l'iTunes, ma c'è anche un'offerta libri, se non sbaglio si chiama iBook. Di che cosa stiamo parlando, Luca? cioè il negozio virtuale di ebook, quindi di testi in formato digitale. È una delle funzioni su cui Apple ha sottolineato maggiormente l'attenzione per quando ha presentato l'iPad, perché l'ha in qualche modo messa in competizione con i Kindle e con gli ebook reader, cioè questi oggetti nati apposta per leggere i libri in formato virtuale. Sì, una delle applicazioni più interessanti è sicuramente quella di leggere l'ebook. I testi hanno prezzi tutto sommato limitati. Ce ne sono in italiano o pochi? Perché questo è un altro dei problemi. Allora, ce ne sono, ce ne saranno, sono in fase di espansione dei titoli in italiano, se ne trovano molti in inglese in questa fase di lancio. Va detto e va specificato che gli e-book reader, cioè i lettori di libri digitali, come ad esempio il Kindle dell'Amazon, ma poi insomma ci sono prodotti di altro tipo e di altre marche, sono nati per la lettura, hanno schermi particolari fatti con un inchiostro digitale, diciamo così, particolare, che permettono la lettura prolungata senza stancarsi. Ma insomma, di ebook reader abbiamo parlato in altre occasioni, quindi stiamo parlando di prodotti decisamente diversi. Qua invece abbiamo uno schermo tipicamente da computer, giusto? Quindi luminoso come quello di un computer. Questo è un dispositivo multimediale, quindi si presta a vari tipi di utilizzi, ma è un dispositivo multimediale. È un pannello illuminato, retroilluminato, quindi stanca un po' di più rispetto a un ebook reader che ha restituisce una sensazione simile a quella della carta. È un device tuttofare, quindi lo si compra e ci si naviga, si leggono i libri, si ascolta la musica, si fanno tante cose. Jeff Bezos, che è il CEO di Amazon, non teme per esempio la concorrenza dell'iPad, perché sostiene che chi vuole leggere un libro e chi è interessato solo a leggere un libro comprerà un ebook reader. L'iPad è un dispositivo, come dice lui, general purpose, quindi con una flessibilità di utilizzo molto più ampia di un ebook reader, quindi di fatto non c'è molta competizione tra i due. Certo, chi comprerà un iPad avrà anche un ebook reader, viceversa chi comprerà un ebook reader non avrà un iPad. Infatti uno dei problemi è, ma del resto l'industria in generale, non solo l'Apple, è bravissima nel fare questo, è che tutti i nuovi prodotti, alla domanda sostituirà la tal cosa, la risposta è quasi sempre no, cioè dovremmo, o comunque potremmo avere questo, quell'altro ancora per fare tante cose, anche se questo, come tu dicevi, è un prodotto con il quale si possono fare molte cose, quindi di fatto in una parte forse della nostra giornata può sostituire il computer, ma poi uno si trova di fronte alla necessità di avere il computer, se non altro perché mi pare che per attivarlo serve un computer, giusto? Per attivarlo serve un computer, sì, perché bisogna passare da iTunes e quindi sincronizzare dei dati, inserire il proprio account iTunes, quindi iTunes rimane centrale nella vita dell'iPad, esattamente come con l'iPhone, esattamente come l'iPod. Senti Luca, abbiamo detto all'inizio che si sta rispolverando e forse stiamo assistendo ad una rinascita alcuni dicono addirittura ad una nascita del segmento, quindi di un nuovo segmento che è quello dei tablet PC o comunque dei computer cosiddetti tablet. Cosa stanno facendo gli altri? Per il momento il mercato è appannaggio dell'iPad, anche perché d'altra parte con oltre 1 milione di unità vendute in poco meno di 2 mesi, insomma è un successo difficilmente scalfibile in questa fase. Qualcuno ha tentato di anticipare Apple di qualche settimana, HP, annunciando una sua versione del tablet, l'Ice Lake. In questa fase stanno ancora decidendo quale sistema operativo inserire, perché doveva arrivare con Windows 7 e probabilmente arriverà con WebOS, che è il sistema operativo usato da Palm, che è appena stata acquisita da HP sugli smartphone. Dell è in fase di lancio, o comunque di presentazione, di un tablet un po' più piccolo, da 5 pollici, basato sul sistema operativo Android. Si fa molto parlare di qualche azienda che è pronta a lanciare, ma per il momento sono veramente solo gossip. Si parla di Acer, di Lenovo. Però per il momento appunto si parla solamente, tutti sono un po' alla finestra per capire che cosa succederà. Luca, io ti ringrazio per essere stato con noi, sicuramente sul prossimo numero, in arrivo la prossima settimana di Netbook, parlerete ampiamente di iPad, giusto? Di più, lo recensiamo e vi diciamo esattamente come va e forse a cosa serve anche. Bene, grazie, buon lavoro, a presto. Grazie a voi, buona giornata. Un'altra delle cose di cui si è discusso molto in occasione della presentazione del lancio negli Stati Uniti dell'iPad è la mancanza del supporto per Flash, quindi tutti i siti internet e tutte le applicazioni che sono realizzate in Flash, e ci sono molti siti internet che hanno qualche cosa realizzato con questo linguaggio di Adobe, non possono essere visualizzati. Ad esempio, io ascolto una radio internazionale che ha un'applicazione Flash che eroga il segnale audio e in questo caso non potrei ascoltarla. La chiamiamola battaglia, le critiche anche di Steve Jobs alla Adobe su Flash, che Steve Jobs dice è un prodotto superato, un prodotto vecchio, è sicuramente molto interessante. Se avete tempo e pazienza, c'è una lunga lettera pubblicata sul sito internazionale della Apple, ma ci sono molte notizie su molti siti internet a commento di tutto ciò. Vedremo poi il mercato che cosa dirà, perché anche questo sarà importante per vedere come verranno sviluppati i prossimi siti internet. Questo è 2024, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Adesso parliamo di telefonia mobile. La scorsa settimana una serie di dati ci raccontano dei cambiamenti in atto. A livello mondiale Nokia rimane numero uno con un ampio margine sulla numero due Samsung. Nokia sta perdendo qualche quota di mercato, ma sostanzialmente tiene molto bene il passo, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, dove ci sono popolazioni incredibili con voglia e desiderio di acquistare un nuovo telefonino, e lì Nokia va particolarmente bene. Ma per capire cosa sta succedendo nel mercato è con noi Carolina Milanesi, che da Londra governa e osserva questo mondo difficile della mobilità, quindi non solo telefonia mobile, non solo smartphone, ma tutto ciò che, ad esempio, compresi gli iPad, formano questo complicato mondo. Carolina, bentornata a 2024. Grazie, un piacere. Che cosa sta succedendo in modo particolare? Come sta cambiando il mercato? Guarda, il mercato si sta più e più spostando su due poli. Da una parte hai la fascia bassa del mercato, la fascia che ormai è completamente commoditizzata, dove hai una forte presenza adesso dei cinesi in mercati come la Cina in se stessa, ma anche parte dell'Asia, in particolare l'India, piuttosto che il Medio Oriente, l'Africa, l'America Latina, dove tutto è fatto in base al prezzo, no? Hai la possibilità di avere dei telefonini che sembrano i telefonini della Nokia piuttosto che il telefonino di BlackBerry a dei prezzi che sono un terzo di quello che pagheresti quelli originali, e questi stanno prendendo molto molto piede nella parte bassa, mentre nella fascia alta hai un mercato che si sta spingendo sempre più verso l'importanza del software, delle applicazioni e dei servizi, dove l'hardware è sempre importante perché ovviamente comunque il gusto e il design è importante, ma è soltanto secondaria alla prima che ho detto, quindi al software, le applicazioni e i servizi, e dove controllare l'ecosistema diventa sempre più importante, e quindi vedi all'interno dei venditori compagnie come Apple, come RIM, che controllano proprio tutta la catena, che hanno un successo molto più importante, ma soprattutto che dal punto di vista finanziario hanno dei margini molto migliori. Questa è l'ultima parte di 2024, vi ricordo che tra poco sarà disponibile il file MP3 della nostra trasmissione attraverso il servizio podcast. Potete scaricarlo anche andando sul nostro sito internet www.radio24.it, cliccate nella sezione podcast, poi su 2024 nella parte XML li trovate, insomma, le ultime 5 puntate in formato MP3 pronte per essere scaricate. Ma se vi abbonate attraverso software particolari, come ad esempio l'abbiamo citato poco fa, iTunes, se vi abbonate al servizio podcast la cosa è molto più semplice e, se volete, anche automatica. Se avete ideato o inventato un prodotto o un servizio, a chi vi potreste rivolgere? Se una persona vuole creare, soprattutto se è giovane, piena di idee, vuole creare un'azienda, a chi potrebbe rivolgersi? Beh, in ambito tecnologico sono molti giovani che provano a creare imprese, anche in Italia sta nascendo un ecosistema con capitali per sostenere queste nuove imprese. Di questo parleremo la prossima settimana a 2024, un argomento molto importante proprio per la crescita delle giovani aziende e del sistema economico italiano. Stiamo parlando di telefonia mobile del mercato con Carolina Milanesi, che è la responsabile del settore mobilità per Gartner, la società di analisi internazionale Gartner. Siamo abituati con il web, con internet, a un mondo aperto basato su standard. Qualsiasi sia il computer che io acquisto, posso andare su internet e vedere i siti internet senza problemi. Nella telefonia mobile sta nascendo qualche cosa di diverso. Pensate ad esempio alle applicazioni, sono una grande opportunità per chi le vende, per chi le produce, ma sono un problema per i consumatori, perché se io cambio telefono, addirittura cambio sistema operativo, devo acquistare o comunque scaricare nuove applicazioni, insomma un problema. Vorrei chiedere a Carolina Milanesi se effettivamente stanno vincendo quelle aziende che basano la propria offerta su questa catena verticale. Ti do il sistema per il telefono con un tal sistema operativo e una offerta di applicazioni. Non c'è solo la Apple, ma la stessa cosa la stanno facendo anche altri, ad esempio Google con Android, RIM con il BlackBerry, eccetera eccetera, anche altri produttori, insomma quasi tutti hanno il proprio application store e questo modello cercano tutti di riproporlo. Carolina? Sì, un pochino, nel senso che se tu prendi RIM e Apple hanno appunto questo controllo, però la realtà è che poi il loro mondo viene aperto agli sviluppatori comunque, quindi è un mondo che ha una porta dove però c'è un cancello, diciamo, che ti si apre se tu ti comporti in un certo modo, altrimenti rimane fuori da questo cancello. E la realtà è che si parla tanto di smartphone, che sono stati questa apertura, come dici tu, no? Siamo passati da sistemi operativi che erano proprietari a sistemi operativi aperti, però c'è aperto e aperto, quindi c'è un sistema operativo che è aperto agli sviluppatori ma che è tuo come Apple e RIM, oppure un sistema operativo aperto in tutti i sensi come può essere Android, che è il sistema operativo di Google, che quindi ha portato una serie di venditori diversi come HTC, come Motorola, la Samsung, LG e Sony Ericsson, tutti a sviluppare sulla stessa piattaforma con le stesse applicazioni e gli stessi servizi, e poi che hanno differenziato con un tipo di user interface leggermente diverso. Però in teoria questi telefoni delle varie aziende sono interoperabili, perché la piattaforma sottostante è una. Nel segmento quello che interessa maggiormente, cioè quello degli smartphone, soprattutto nei paesi occidentali, insomma Italia compresa, Nokia e in modo particolare il sistema operativo Symbian rimane numero uno, ma dietro crescono fortemente, come tu dicevi, sia RIM che Apple, che sono rispettivamente numero due. La RIM, lo ricordiamo, è la produttrice del BlackBerry, ed Apple è la produttrice dell'iPhone. Come si stanno comportando i vari produttori, ma in generale il mondo Android? Perché molti scommetterebbero su Android per il futuro, ma come vanno concretamente le cose? Guarda, in America le cose stanno andando benissimo, tanto è vero che per la prima volta nel primo trimestre Google, quindi Android, ha sorpassato Apple e iPhone come sistema operativo. In Europa le cose sono un po' diverse, perché per adesso le vendite rimangono molto al di sotto delle vendite che vediamo dell'iPhone, e così anche in Asia. Per noi le ragioni sono diverse. Uno, il fatto che comunque come brand Google rimane più forte in America che non in Europa. Due, che il mercato americano è un mercato particolare dove al di fuori di Apple e RIM non c'era un mondo smartphone prima che arrivasse Android, e che quindi adesso se tu hai un'alternativa a queste due aziende e ai loro prodotti, Android è la tua opportunità. Qui in Europa la realtà è che ci sono tanti ancora sistemi operativi proprietari di LG e di Samsung in particolare, che offrono al consumatore una buona esperienza touch, e quindi non necessariamente devi rivolgerti a Android per avere un'alternativa all'iPhone, per esempio. E l'ultima cosa che magari metto è che per adesso in Europa dalle marche più forti come LG e Samsung non abbiamo visto ancora dei device molto, dei telefonini molto ricchi su Android, e che HTC si sta ancora spingendo ad essere un venditore di prima linea, no? Stanno ancora lavorando molto con gli operatori. Sì, HTC è soprattutto un produttore conto terzi, diciamo, è più forte da questo punto di vista, invece come brand, come marchio riconoscibile dal pubblico, un po' più debole. Bene, io ringrazio come sempre Carolina Milanesi per essere stata con noi, buon lavoro, a presto. Arrivederci. E così chiudiamo questa puntata di 2024, grazie come sempre ai nostri tecnici, oggi Pietro Lacorte. Vi ricordo che tra poco sarà disponibile il file MP3 della nostra trasmissione, grazie anche ad Anita Panizza in redazione. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Torniamo la prossima settimana, sempre il sabato, nel pomeriggio di Radio 24, tra le 16 e le 17. Io sono Enrico Pagliarini, come sempre grazie per la vostra attenzione. Adesso buon ascolto con i nostri programmi. You are disconnected.